si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme sino alle 11, uno sguardo alle prime pagine dei giornali, poi le buone notizie, gli approfondimenti, i vostri interventi al numero verde, ma dopo il giornale radio delle 9 andiamo subito ad iniziare. And now the good news! E oggi per la buona notizia con cui iniziamo ogni mattina non c'è bisogno di andare a spulciare nella cronaca locale di chissà quale cittadina. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi invece troviamo: startup al via il visto facile. Di che cosa si tratta? Le regole ci sono tutte, ora tocca al mercato. Il quadro normativo per facilitare la diffusione di startup innovative è praticamente completato dopo la pubblicazione nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo per gli incentivi fiscali sugli investimenti. Sono in corso di emanazione anche gli atti per sbloccare il visto, per garantire una corsia veloce per chi vuole aprire una startup in Italia. Insomma, il nostro paese sta diventando sempre più attraente per italiani e stranieri che vogliono investire in nuove imprese. Sembra sorprendente, ma è così, lo dimostrano anche i dati dell'iscrizione al registro speciale della Camera di Commercio, che fanno segnare 1792 startup costituende o già costituite. Il record va a Milano con 236, quindi l'area più attraente, poi segue Roma 167, Torino 115, Trento 73 e Bologna 63. Oh, e per una volta le buone notizie ci vengono dai quotidiani nazionali, per fortuna, ma i titoli principali di oggi sono dedicati alle nuove mosse del governo Renzi, un po' alla situazione in Crimea e altre cose, lo scontro, incontro-scontro tra Maroni e Pisapia su Expo. Cominciamo con il Corriere. L'impegno di Renzi per l'Expo 2015. Verrò due giorni a Milano, ce la faremo. Pisapia sbaglia, dice il governatore Maroni, non realizza le opere che toccano a lui. All'interno c'è l'intervista a Maroni, leggiamo brevemente. Sapete che la società Infrastrutture Lombarde, che fa capo alla regione, dopo l'arresto di un suo ex dirigente, è nel mirino per questioni di corruzione ed è in mezzo ai lavori di Expo. Lunedì, dice Maroni, ci sarà il nuovo direttore dei lavori, dal momento che la convenzione tra Expo e Regione prevede che sia la Regione, attraverso le sue società Infrastrutture Lombarde, a nominare il direttore dei lavori. Abbiamo già individuato una persona che può svolgere egregiamente un simile compito. Una vicenda che si poteva evitare? Ricordo che stiamo parlando di fatti avvenuti tra il 2008 e il 2012. Io sono arrivato in Regione a marzo 2013. Qualcuno dice che Rognoni sia crollato l'ultimo tassello del potere di Formigoni. Lei come la vede? Non mi interessano retroscena e dietrologie. Poi, con Pisapia non siete d'accordo anche sulle vie d'acqua per Expo. Troverete una soluzione? Dice Maroni, durante il vertice di venerdì ho contestato al comune che le opere che doveva fare non le sta facendo. La parte nord delle vie d'acqua assegnata alla regione è in corso di realizzazione, quella a sud del comune non è ancora partita. Lo stesso per la linea 4 della metropolitana, che non sarà pronta per Expo. E quindi da qui il titolo: Pisapia non realizza le opere che dovrebbe fare. Così Maroni. La risposta di Pisapia su Repubblica, un'altra intervista, l'appello di Pisapia sulla Expo si rischia, deve scendere in campo il governo. Anche qua c'è un'intervista nella quale Pisapia dice di non essere preoccupato, stiano tutti tranquilli, non c'è nessun allarme Expo, ci siamo impegnati, l'Expo sarà la vetrina dell'Italia sull'uscita dalla crisi. Una preoccupazione Pisapia ce l'ha però ed è questa: ho davvero tanta paura, i tempi per i lavori sono strettissimi, temo che la pioggia o il rischio di neve nel prossimo inverno potrebbero rallentare i cantieri. Con tutto il casino che c'è stato di litigate e di corruzione dentro Expo, la preoccupazione di Pisapia per la nevicata dell'inverno prossimo, vabbè, e del resto è un rischio anche quello. Il Sole 24 Ore titola invece su Padoan: nuovo piano di privatizzazioni, dice il ministro dell'economia, dopo le Poste anche le Ferrovie e Fincantieri. aperte ai capitali privati. Leggiamo qualche dettaglio sul Sole 24 Ore. Laura Serafini scrive: il governo intende procedere a accelerare il programma di privatizzazioni dell'esecutivo precedente. Ed in questo senso, ha detto Padoan, è in via di definizione un nuovo piano di privatizzazioni. Avanti dunque su Poste, Fincantieri e Ferrovie. Padoan ieri ha ricordato: la società, lo Stato resta azionista di controllo di oltre 30 società, azionista di riferimento di società in alcuni comparti. Almeno in alcuni di questi comparti c'è spazio per un ruolo ridotto dell'operatore pubblico. Quindi insomma, il valore delle privatizzazioni, secondo il Sole 24 Ore, potrebbe essere 4 miliardi sulle Poste Italiane, 1 miliardo sull'ENAV, tra 1,8 e 2,4 miliardi su Eni. Invece vediamo un altro giornale, vediamo La Stampa, che si occupa per esempio del referendum in Veneto, perché 7 veneti su 10 il referendum online, ma solo il 60% usa il web. Cosa è stato fatto? È stato messo a confronto il numero di votanti, che il 73% degli aventi diritto hanno votato al referendum in Veneto, in una regione però, ricorda La Stampa, dove secondo i dati Istat solo il 60% della popolazione ha usato internet almeno una volta nel 2013, cioè avrebbe votato gente che non sa nemmeno come è fatto un computer. Può darsi che siano stati accompagnati e guidati dal nipote o dall'amico che lo sa fare. Tant'è, ricorda La Stampa che manca ancora però un notaio che possa certificare il numero di votanti. Busatto, che è il fondatore dell'iniziativa, dice che fa riferimento a non meglio identificati osservatori internazionali che stanno valutando questi 2.102.969 voti digitali, però al momento appunto un notaio che possa certificarlo ancora non c'è. Questo sicuramente avrebbe giovato alla serietà di questa causa. Ricordiamo anche il titolo del giornale in chiusura: Renzi si impantana, i guai del Premier. Dopo Confindustria, l'attacco dei commercianti, per ora solo annunci. Vogliamo tagli veri alla spesa, e Padoan lo gela: i vincoli dell'Europa non si toccano. Poi Berlusconi, solito titolo su Berlusconi sul voto: i miei figli non si candidano, questo lo ha detto anche ieri lo stesso Silvio Berlusconi. Poi solo il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri sulla vicenda degli stipendi dei manager: lasciate stare chi lavora e pensate agli enti inutili. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, restiamo in edicola, andiamo a curiosare come ogni domenica a quest'ora tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore. Il domenicale, ritroviamo il suo curatore responsabile, il direttore Armando Massarenti, buongiorno. Buongiorno e buona domenica a tutti. Carissimo Armando, oggi dove ci guidi nei meandri dei grandi appuntamenti, dei dibattiti, delle rassegne, le cose che contano, da dove cominciamo? Ma intanto cominciamo da una copertina piuttosto notevole. Antonia Byatt, una delle più grandi scrittrici inglesi, che sulla scorta di un suo viaggio a Venezia ha scritto un testo molto bello. Lei era stata due anni fa a Venezia a Incroci di Civiltà, questa iniziativa, questa manifestazione culturale, ed era rimasta molto colpita dal palazzo Fortuni, che dir si voglia, che prende il nome da questo grande artista, che a lei ha richiamato un altro artista simile, insomma artigiano, artista di genio, che è William Morris. Ora, questi sono personaggi molto importanti sia per l'arte sia per il collezionismo, quindi noi abbiamo costruito una copertina in cui il testo della Byatt, che è un racconto pieno di ragionamenti e di capacità di mostrare come questi due, Morris e Fortuny, fossero molto simili, cioè illuminassero un po', insomma, vicenda nella sua descrizione, entrambi assolutamente geniali, capaci di collezionare oggetti, cose, opere d'arte, cambiando l'aspetto del mondo che li circondava. Ecco, questo è un po' il filo di questo lungo testo che poi continua nelle pagine di quel Domenica da collezione, non a caso, perché appunto parliamo di due personaggi che riguardano anche il mondo del collezionismo. Quindi una copertina un po' strana, molto lunga, ma vale la pena di addentrarsi in questo testo veramente ricchissimo di sfumature e di profondità, alle quali peraltro una scrittrice come Antonia Baia ci ha abituato con i suoi libri molto belli e anche molto noti in Italia, per esempio Possessione, per citarne uno soltanto, tutti editi peraltro da Einaudi. Ecco, sempre in ambito letterario, poi vorrei dire due cose anche sulla parte scientifica, che è sempre molto forte nel domenicale, ma io vorrei introdurre però il nostro ospite, che è Salvatore Silvano Nigro, a cui abbiamo affidato in realtà avevamo affidato la recensione di questo volume bellissimo, che è il testamento intellettuale di uno dei nostri più grandi critici, che è Cesare Segre, che è mancato proprio domenica scorsa, e quindi questa recensione, un ragionamento sulla intera opera di Cesare Segre è diventato anche un ricordo, appunto, che ci ha scritto Salvatore Silvano Nigro. E vorrei quindi dare la parola a lui, sì, per dirci che cosa ci lascia questo grande... Intanto lo salutiamo, gli auguriamo il buongiorno. Un saluto a tutti. E la buona domenica. Sì, prego, buongiorno. Nigro. Dunque, diciamo che purtroppo la scomparsa di uno dei più grandi critici e filologi del Novecento, quale appunto Segre, si accompagna a un'altra grande scomparsa, cioè è morto anche Ezio Raimondi. Ezio Raimondi e Cesare Segre sono due dei più grandi interpreti della cultura europea del Novecento, due grandi studiosi che hanno aggiornato la cultura italiana. Ma per restare a Cesare Segre è stato il mediatore tra le teorie linguistiche, la linguistica, la critica letteraria europea e l'Italia, mediante una cosa importantissima, cioè il fatto che grazie al Cesare Segre, ma anche a personaggi come la Maria Corti, che con lui ha lavorato per tanto tempo, hanno mediato una cultura che poteva essere pericolosa per il mondo italiano, nel senso che noi ci siamo trovati in una situazione disastrosa post-crociana di disorientamento. Loro hanno ancorato lo strutturalismo europeo a una situazione culturale italiana, evitando quegli svantamenti eccessivi che per esempio ci sono stati in Francia, evitando il linguaggio allusivo, evitando un tecnicismo eccessivo, evitando soprattutto le derive interpretative, ma soprattutto hanno ancorato tutti gli aggiornamenti a una base filologica notevolissima. Non dobbiamo dimenticare che Cesare Segre è stato un grande filologo, come è stato un grande filologo anche Ezio Raimondi, per cui tutti e due sono stati due che hanno aggiornato la cultura europea attraversando tutti gli sperimentalismi del mondo occidentale, però ancorandole a una base filologica notevolissima, e quindi questo ha reso la cultura italiana molto più forte e molto più sicura che non in altri ambiti nella stessa Europa. Armando Massarenti, a te ritirare le fila di questo dibattito. Ma intanto voglio solo ricordare che naturalmente non ci siamo dimenticati di Raimondi, e c'è accanto all'articolo di Salvatore Nigro due articoli, uno di Carlo Ossola e un altro di Gabriele Pedulà, che appunto tratteggiano un ritratto altrettanto profondo di Ezio Raimondi. E vorrei sottolineare soprattutto una caratteristica di Raimondi, che era quello di fare come un libro stampato, tant'è che alcuni suoi libri sono proprio delle trascrizioni fedeli di lezioni che lui teneva rigorosissime, così parlava già, insomma, da come se il libro fosse già tutto scritto nella sua testa, quindi un oratore notevolissimo. Forse questa è la cosa che mancherà moltissimo a tutti i suoi lievi ammiratori e a tutti gli studiosi, a tutti noi. La cosa che vorrei aggiungere accanto a questo, giustamente Salvatore Nigro ricordava di questo rigore, ecco, cioè del fatto che la cultura letteraria, che la cultura umanistica debba appunto, poi quando si tratta di filologi in particolare, questa sottolineatura viene molto spontanea. Ecco, in questo numero c'è anche un ragionamento, ci sono alcuni ragionamenti molto importanti su come arte, e quindi da un lato cultura umanistica e scienza, non possano stare divise. Ci sono per esempio un articolo di Umberto Bottazzini che parte da un libro che si chiama Armonicamente, arte, scienza, confronto, curato da Pietro Greco, ma soprattutto c'è una bellissima recensione di Franco Renzoni sull'ultimo libro di Carlo Rovelli, La realtà non è come ci appare, che è un invito, lui dice Lorenzoni giustamente, sarebbe da dare nelle mani ad ogni diciottenne questo libro, perché con grande chiarezza fa capire quanto la scienza possa essere visionaria e quanto possa essere rigorosa nello stesso tempo, e la fisica di oggi ci offre proprio questa possibilità. Aggiungo sempre dal punto di vista dell'unire le culture, la terza pagina, l'Elzeviro, è di Gianfranco Ravasi, che ci ricorda le lettere attraverso le quali Galileo si disse per la prima volta copernicano. Sono soprattutto la lettera a Cristina di Lorena sui rapporti tra l'autorità della scrittura e la libertà della scienza. E dice Ravasi, eliminiamo tutti i vecchi steccati, perché qui Galileo ci dà, separando le due sfere, dicendo che sono due sfere distinte, quella della teologia e quella della conoscenza e le verità scientifiche, ci dà soprattutto, più che una lezione di scienza, proprio una lezione di teologia, e ci dà anche una lezione di cultura. E leggo a questa idea della cultura, del mettere al centro le competenze, ancora una volta, perché abbiamo un intervento d'eccezione, la senatrice Elena Cattani, che soprattutto però ci tiene qui a intervenire in veste di scienziata, qual è, di genetista, che ritorna sul, perché è veramente caldissima la discussione sul Senato, la nostra idea del Senato, delle competenze, del Senato del saper fare, cioè riformiamo il Senato, non buttiamo via l'idea stessa, il nome di Senato, ma rifondiamolo proprio a partire dalle conoscenze, dalle competenze, dalla capacità, dal rigore che proprio Silvano Nigro peraltro ci ricordava, ricordandoci Cesare Segre. Benissimo, questo è molto altro, il domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, oggi in edicola, grazie Armando Massaretti, grazie soprattutto a Salvatore Nigro. Noi Armando ci ritroviamo domenica prossima con questo appuntamento, come naturale che sia. Grazie per ora, invece con Si può fare ci ritroviamo subito dopo il giornale radio, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Cominciate a prenotare subito, potete commentare quello che sentite, raccontarci cosa ha reso bella la vostra settimana, le vostre buone notizie. Tra poco anche il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana, si vincono i biglietti per la mostra di Klimt e anche il prezioso catalogo. Privatizzazioni, dismissioni, caserme da chiudere, queste sono le intenzioni del governo. Cosa fare con le caserme da chiudere? Glielo diamo noi un bel suggerimento al governo, raccontando un progetto originale e interessante che viene dalla provincia di Ferrara. Tra poco 800 24 00 24 e poi anche indicazioni sulla nuova iniziativa di Si può fare, diventa inviato di Si può fare, avete la possibilità di venire in onda a raccontare le vostre buone notizie, basta seguire le nostre istruzioni, alla fine un'iniziativa che andrà avanti di 2 mesi fino al 31 di maggio, alla fine c'è anche un premio per il reportage più bello, insomma. Ma però ve lo raccontiamo tra poco. Adesso una breve pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ha annunciato una spending review anche nell'ambito della sicurezza, tagli alle caserme, accorpamenti delle forze dell'ordine, dismissioni. Però oggi sulla prima pagina del Corriere c'è una notizia: la relazione dei vertici delle forze dell'ordine a Palazzo Chigi suona come un monito, rischioso ridurre gli organici, no alla fusione dei corpi. Insomma, ci sono resistenze a questa spending review nel campo delle forze dell'ordine. E però il ministro Pinotti ha detto: chiuderemo 385 caserme. Insomma, bisogna risparmiare, bisogna tagliare da qualche parte nelle forze dell'ordine e soprattutto nella difesa, perché sappiamo che c'è un progetto di riorganizzazione dell'esercito che avrà meno personale e più dotazioni tecnologiche. Ma cosa fare di queste caserme? Noi stiamo per dare al governo un grande bel suggerimento. Il suggerimento viene dalla provincia di Ferrara, una factory nata in una ex caserma dei vigili del fuoco, in questo caso di proprietà della provincia di Ferrara. Ne parliamo con Fabrizio Casetti, presidente dell'associazione Spazio Grisù, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche con Marcella Zappaterra, presidente della provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Casetti, noi ci siamo già sentiti l'anno scorso quando questa factory, adesso ci racconterà di che cosa si tratta, stava nascendo da uno spazio di edilizia abbandonata ad una sede per tante imprese nell'ambito della cultura, nell'ambito della creatività, del digitale, insomma nuove start-up, nuove imprese. Però prima di entrare nel merito di quello che fate voi, è giusto come suggerimento dire al governo: guarda che queste caserme che vai a chiudere, ci sono mille modi per utilizzarle, per esempio dandole, come avete fatto voi, come sede a delle imprese nell'ambito dell'artigianato, per esempio. Beh, è perfetta come idea, perché appunto utilizzando le energie e la spinta delle imprese culturali creative si recuperano questi spazi che non sono più utilizzati per vari motivi. Caserme in Italia, da quando non c'è più il servizio di leva, ce ne sono tantissime vuote e ci sono tante imprese culturali creative, giovani imprese, che hanno bisogno di spazi. Quindi mettere assieme le due necessità mi sembra la cosa più semplice. Ed è quello che avete fatto voi. Quanto può incidere per un'azienda il fatto, diciamo, di poter risparmiare sull'affitto o l'acquisto proprio della sede, cioè delle mura, dello spazio dove stare, se parliamo magari di aziende che hanno anche bisogno di spazio per realizzare dei prototipi, comunque quindi non solo di una sede di rappresentanza amministrativa ma anche di più. Quanto può incidere economicamente su un budget di una startup questa cosa, come risparmio? Faccio un esempio pratico, a parte il risparmio di non dover pagare affitto, però abbiamo un esempio pratico: una delle nostre imprese, Innova, si è insediata da noi l'anno scorso come studio di ricerca e progettazione aerospaziale e nautica. Poi alcuni loro clienti gli hanno chiesto invece di passare dalla progettazione alla produzione di prototipi funzionanti. Quindi quello, avevano solo un ufficio, ci hanno chiesto invece di avere uno spazio laboratorio, quindi hanno lasciato la stanza che avevano con l'ufficio e gli abbiamo assegnato tre camere al piano terra con accesso per iniziare un laboratorio. Adesso hanno trovato un investitore che gli chiede di ampliare la loro produzione passando... E si compreranno tutta la caserma alla fine. No, non se la comprano, ma gli vengono assegnati ulteriori spazi. Se fosse stato uno spazio normale, una situazione normale, avrebbero dovuto disdire un affitto, cercare un altro spazio in affitto, trasferirsi, perdere probabilmente delle caparre, versare delle nuove caparre e anche tutta la trafila burocratica di queste cose amministrative. In questo modo loro si sono concentrati unicamente nel loro core business e noi li abbiamo aiutati, non hanno dovuto fare investimenti ulteriori, hanno potuto continuare allargandosi anche alla produzione di droni da lavoro, che è la cosa che porterà maggiori sviluppi nel futuro. Quindi è molto comodo, è molto produttivo. Per fare tutto questo però bisogna ringraziare anche la provincia di Ferrara, e non è un ringraziamento, diciamo così, istituzionale, di quelli che si mettono in fondo ai deplian delle iniziative, è un ringraziamento vero. Perché? Perché la provincia di Ferrara, che era proprietaria di questa caserma, dico bene? Dottoressa, esatto. Zappaterra? Sì, sì, assolutamente, verissimo. La presidente della provincia. Ecco, a un certo punto, dopo aver provato, credo, a venderla, ha deciso però di darla gratuitamente, in pratica, incomodato. Qual è la scelta che avete fatto? Qual è la storia di questa caserma dei Vigili del Fuoco? Beh, è stata abbandonata per a favore di un nuovo immobile e da 10 anni non era più utilizzata, quindi cominciava ad essere in avanzato stato di degrado, come del resto lo sono molte caserme abbandonate di proprietà dello Stato che esistono sui territori anche prima della spending review, prima dell'ipotesi di riduzione del governo. Certo. Grisù, il presidente di Grisù è venuto da noi con questa idea di utilizzo. L'abbiamo trovato un'idea straordinaria e abbiamo accolto la sfida. Abbiamo accolto la sfida e mi faccia dire, ci siamo assunti una grande responsabilità, perché per come funziona la burocrazia in Italia, in particolare per lo Stato e per gli enti locali, gli amministratori avrebbero un loro interesse particolare a lasciare l'immobile nello stato in cui è, perché si rischia di più dal punto di vista giuridico personale, perché bisogna firmare degli accordi, delle assicurazioni, c'è un lato di responsabilità. Perfettamente. Sì. Caserma è stata per molti anni nel piano di alienazione dell'amministrazione. Abbiamo tentato di venderla, ma ovviamente con la crisi dell'edilizia. Chi se la compra una caserma? Non è esatto, facile. A 6 milioni di euro a base d'asta non era facile. E abbiamo ritenuto che fosse un grande vantaggio per la collettività e un grande interesse generale provare ad utilizzarla per quegli scopi. Quante, e guardi, sì, sta funzionando. Cioè, lo Stato davvero dovrebbe capire che il riutilizzo degli immobili, certo, è un vantaggio per la collettività, perché l'immobile è stato valorizzato ed è funzionale alla crescita economica ed imprenditoriale. Ecco, questo mi sembra un punto fondamentale, perché immagino già l'obiezione di alcuni ascoltatori che diranno: beh, certo, però la provincia poteva incassare, potevano entrare, esatto, un po' di soldi nelle tasche della collettività, invece in questo modo l'hanno data, l'hanno regalata, l'hanno prestata. Però Casetti, io mi ricordo che a suo tempo voi parlavate anche di una misura, un moltiplicatore rispetto agli investimenti che erano stati fatti inizialmente per recuperare la caserma, cioè i soldi mobilitati, quanto poi, diciamo, proprio in termini economici rendevano in termini di creazione di imprese e quindi di fatturati veri e propri. Cioè, questa operazione ha anche un valore economico. Sì, abbiamo, dopo circa un anno dall'inizio dall'apertura del progetto, abbiamo fatto una rendicontazione proprio anche per verificare e dare alla provincia la misura dell'investimento che era stato fatto. Ora, il progetto per partire, quindi per avviare quest'idea, erano stati investiti 950 euro in quello che erano le, diciamo, bolli e depositi della burocratici, e poi abbiamo fatto i conti che con quello che ci avevano messo le imprese, con l'impegno monteore ma anche investimenti diretti delle imprese per il recupero dell'immobile, nel giro di neanche un anno l'immobile era già stato rivalutato per oltre 700.000 euro, quindi passiamo da 1.000 a 700.000, direi che è un'ottima resa. Tra l'altro, Ferrara da questo punto di vista ha già dato, perché diciamo che già è stata devoluta questa ex caserma dei Vigili del Fuoco a sede di una factory con quante aziende creative, Casetti? 18 mi pare adesso siete? Sì, adesso attualmente sono 13, perché ci sono stati, sì, vari movimenti, ne abbiamo già selezionati altri due e continuiamo a selezionare, perché ecco, anzi mi piace farlo sapere che il bando è ancora aperto perché spazi ce ne sono ancora disponibili, quindi noi siamo sempre alla ricerca di imprese da aiutare, cioè da aiutare a crescere, da accelerare, ecco. Però ecco, volevo chiedere alla Presidente della provincia di Ferrara, Zapaterra, se tutte le città italiane che hanno, ogni città, ogni provincia, sicuramente anche più di una caserma, più di uno spazio di edilizia abbandonato, facessero quello che fate voi, pensate che effetto anche dal punto di vista economico ci potrebbe essere? Secondo me addirittura misurabile, credo, nel PIL, non voglio esagerare, però penso di sì. Lei ha assolutamente ragione, innanzitutto per quanto riguarda il nostro caso, ma credo come molti altri in Italia, rappresenta una grandissima opportunità di rigenerazione urbana e di recupero di un immobile degradato nel pieno centro storico della città, quindi anche un'operazione sociale, perché si sono insediate le imprese, ma lo spazio è pubblico, si fanno concerti, attività aperte a tutto il quartiere che ne aveva bisogno, e dal punto di vista economico è un'occasione straordinaria, perché noi stessi come pubblica amministrazione stiamo lavorando con molte delle imprese che si sono insediate, che abbiamo scoperto fare attività che perfettamente si integrano con le infrastrutture che stiamo costruendo noi legate al turismo, quindi fanno molte scoperte e l'immobile è stato valorizzato, noi li stiamo sostenendo, non abbiamo solo dato loro l'immobile ma li stiamo sostenendo a partecipare a un bando della regione Emilia-Romagna proprio per la sistemazione, sì, degli spazi comuni, quindi un bando da 1 milione di euro al quale parteciperemo un po' noi come provincia e un po' loro come privati, che consentirà fra 3 anni di avere l'immobile continua, a posto assolutamente valorizzato. Continua a crescere. Casetti, presidente, lo ricordo, dell'associazione Spazio Grisù, a questo punto il futuro qual è per voi? Cosa vi aspettate? Perché già avete fatto una cosa straordinaria. Ma noi ci aspettiamo intanto di continuare a scoprire le eccellenze che sono diffuse ormai, che sono diffuse in tutta Italia, quindi ogni città, ogni regione d'Italia ha delle eccellenze, e una delle cose che stiamo facendo adesso, intanto ci siamo resi conto, abbiamo scoperto che non siamo soli, ma come dicevamo in tutta Italia stanno nascendo spazi simili, da co-working a start-up, a acceleratori di impresa, incubatori, spazi dismessi stanno solo in via di recupero in tutta Italia con modalità diverse. A Ferrara non siamo soli, ma ci sono altre iniziative analoghe come il mercato coperto, il Teatro Verdi eccetera, che stanno recuperando, ma anche in Emilia Romagna ce ne sono già varie, da Forlì a Ravenna, Reggio Emilia, ma in tutta Italia, dalle Puglie al Piemonte, si stanno nascendo tante di queste cose, e tutti, ognuno è nato per conto suo, ma adesso stiamo vedendo che siamo tutti spingendo tutti nella stessa direzione, facendo una specie di modello. Ma è vero che avete incontrato il ministro Franceschini, che è venuto lì da voi? Esatto, è venuto a trovarci mentre veniva a visitare la mostra, sì, di Matisse, si è fermato a vedere Spazio Grisù e si è molto emozionato e appassionato a vedere le produzioni innovative e tecnologiche delle imprese che sono insediate, proprio perché è rimasto anche lui stupito di trovare delle eccellenze a livello. Speriamo che abbia parlato, preso appunti, e che poi ne abbia parlato con la Pinotti, il ministro della difesa, per suggerirgli, esatto, di replicare questo modello sicuramente anche su scala nazionale. In bocca al lupo a Fabrizio Casetti di Spazio Grisù, grazie anche alla presidente della provincia di Ferrara, Marcella Zappaterra. Buona giornata. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, se siete a conoscenza di iniziative analoghe, simili a quella di Spazio Grisù che avete appena sentito a Ferrara, chiamateci, saremo qua per ascoltarvi. 800 24 00 24, tra l'altro tra poco il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno anche a Carlo Gabardini. Buongiorno, ciao, buongiorno Carlo, a tutti. Ciao Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buona domenica. Domenica plumbe a Milano, eh? Molto plumbe. Sembra notte. Preoccupatissimo, infatti. Ho letto anche che non eri sicuro che se sarei arrivato o meno, ma perché ho avuto una nottataccia. Una nottataccia. Non voglio sapere niente. No, entriamo in particolari, no, sì. Guarda, siccome oggi calcerò il kick-off dei Lions Bergamo all'interno di un progetto contro l'omofobia, quindi sul campo di Osio Sotto, i Lions Bergamo contro i Warriors Bologna, io calcerò il kick-off della loro prima partita del campionato di football americano, e sarà in mezzo all'acqua. Ma in realtà la nottataccia è stata perché mi sono immaginato tutte le figuracce che potrei fare, del scivolando, tipo scivolo, colpisco male la palla, mi giro e mi vedo tutta la squadra che mi arriva addosso. Le scarpette te le daranno con le scarpette chiodate? Non lo so, penso di sì. Se perché... no, con l'acqua sicuro che va in terra. Non vorrei vedere la scena. Ma soprattutto non so esattamente come si fa, e quindi ho proprio il terrore di vedermi entrambe le squadre. Mi immagino i più buoni che mi faranno un segno del tipo spostati, e gli altri invece che mi verranno addosso e mi butteranno per terra. Senti, vogliamo dare il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana? Assolutamente sì. Così si vincono i biglietti per la mostra di Klimt e anche il preziosissimo catalogo. Il primo indizio lo do io, inizio io. È una donna di volontà. Il nostro personaggio della settimana è una donna di volontà. Sbizzarritevi, ascoltatori. Si inizia benissimo, si inizia. E noi invece ci spostiamo per una bella storia, la favola vera del paese inglese dove il cibo è gratis. È Todd Morton, una cittadina inglese dove tutto quello che cresce può essere raccolto e mangiato gratuitamente. Diciamo, è una sorta di paese commestibile. Todd Morton è una piccola cittadina di 15.000 abitanti al nord di Manchester. E il tutto è iniziato nel 2008, dove Pam, in realtà Pamela Warhurst, però si chiama l'orto di Pam, un giorno qualcuno le ha rubato degli ortaggi e lei, invece, diciamo che alzare il cancello davanti al proprio orto, ha abbassato il cancello e ha scritto servitevi pure. All'inizio le persone non capivano e quindi diciamo ci è voluto un tempo affinché le persone capissero che non era uno scherzo, ma che era realmente così. Questa cosa è diventata contagiosa e adesso in tutto il paese c'è un progetto che si chiama Incredible Edible, quindi l'incredibile edibile, direi. E questo progetto ha fatto scuola perché lo si sta copiando in Francia, Cuba, Hong Kong, in Australia, una cosa simile anche in Italia a San Bonifacio nel Veronese. Ma chi paga, scusa? Nessuno paga, sono semplicemente che vengono piantati alberi da frutto o anche verdure, fagioli, negli spazi pubblici. Lo sanno tutti, e anche tutti gli possono... Esattamente, bello. La cosa incredibile è che ci si aspettava forse un calo delle vendite, in realtà questa cosa qui ha innescato un meccanismo virtuoso per cui anche i commercianti hanno incrementato le loro vendite puntando soprattutto sul cibo a filiera corta. Direi cortissima la filiera, nel senso che basta che esci dal negozio e puoi pigliare la roba gratis. Ma che bella questa notizia. Notizia che ci ha portato. Infatti speriamo di copiarla spudoratamente. E poi questo tra l'altro ha a che fare con l'agricoltura, quindi anche col progetto che fra poco andiamo a raccontarvi e a spiegarvi. Dico un'altra notizia e poi raccontiamo, anzi Alessio vi racconterà meglio questo nostro nuovo progetto legato a Si Può Fare e a voi che farete gli inviati. Comunque, ultima notizia: che cosa sognano i genitori per il futuro dei propri figli? C'è un'interessantissima ricerca che elenca, diciamo, le professioni preferite dai genitori, cioè quello che mia mamma preferirebbe che io facessi, e l'elenco è abbastanza normale, nel senso che all'ultimo, diciamo al decimo posto come miglior lavoro c'è l'impiegato pubblico, al nono c'è il bancario, all'ottavo entra a grande richiesta l'idraulico, e questo è direi dal periodo di crisi e dal fatto che è impossibile trovare un idraulico. Poi che ci il fosse professore no. Poi il professore universitario, il politico al sesto posto, il notaio, il dentista. E poi vabbè, giudice, calciatore al secondo posto, che i genitori preferiscono, è medico. Ma mi sembra più interessante la classifica dei lavori che i nostri genitori non vogliono minimamente che noi facciamo. Oddio. Perché ci chiama tutti in causa anche mia mamma. Non vorrebbero mai che venissero svolti dai figli. Alla decima posizione il musicista. E perché mai? Alla nona il fumettista, che è un lavoro bellissimo. Probabilmente i genitori hanno paura che uno poi giustamente non porti a casa i soldi sufficienti per sopravvivere. All'ottavo posto il maestro, e questo non è una bella notizia, perché diciamo tendenzialmente i genitori trattano il maestro un po' come se fosse un babysitter, e questo è un problema, diciamo, della nostra istruzione, del nostro paese. Al settimo posto c'è l'imprenditore. Che è incredibile, uno dice ma come? Addirittura al sesto posto c'è l'avvocato, al quinto l'ingegnere, ma il podio, al quarto posto c'è il cameriere, ma il podio sono, caro Alessio, il giornalista. Al secondo posto c'è l'organizzatore di eventi e al primo posto il creativo. Quindi io voglio fare l'organizzatore di eventi da grande, perché è un lavoro straordinario. È straordinario. Non so cos'è, ma è bellissimo. Beh, è bellissimo. Bella, dipende, può essere anche molto difficile. Complimenti, Gabardini. Oggi hai trovato delle notizie. Guarda, promosso. Perché non abbiamo chiamato un ospite per parlarne? Perché questo era questo ne ho altre notizie, no, ma noi però adesso dobbiamo raccontare, ecco, sì, questo dobbiamo nuovo raccontare progetto. Questo nuovo progetto. Allora, diventa l'inviato di Si Può Fare. Trovate tutto anche sul sito di Radio 24, www.radio24.it, nella pagina di Si Può Fare. Che cosa succederà? Che ogni sabato e ogni domenica, questo weekend partiamo soltanto oggi, siamo presi il tempo per raccontarlo per bene, vi daremo una parola chiave, una parola per ricercare una buona notizia. Siccome le buone notizie non le dà nessuno, i giornali quasi non ne parlano, sono occupati troppo di guerre, crisi economica, la politica, paginate sulla legge elettorale. Sostanzialmente le diamo noi le buone notizie, ma non possiamo fare tutto noi. Allora noi vogliamo nominarvi cavalieri, ambasciatori delle buone notizie. Quindi sulla base dell'indicazione che vi daremo del tema da cercare quella settimana, il sabato e la domenica, voi iniziate a cercare le buone notizie nella vostra vostra città, nel vostro quartiere. Avete tempo fino a mercoledì per scriverci, fino a mercoledì a mezzanotte. Sì, signori. Alla mail si può fare @radio24.it, che è sempre la solita. Ci scrivete la vostra segnalazione, noi vi ricontattiamo. La proposta più bella verrà chiamata il sabato mattina a fare il reportage, a raccontare sostanzialmente con un intervento telefonico, come fanno i nostri colleghi, inviati, li chiamiamo inviati, a raccontare in 4-5 minuti la vostra bella in notizia. In pratica noi vi investiamo, nel momento che voi avete postato la vostra notizia, noi vi investiamo di dire va bene, vai, fai questa ricerca e poi ci darai questa notizia in diretta, ce la racconti, a Si Può Fare. Ce la racconti. Il tema da cui vogliamo partire questa settimana è l'agricoltura, legato anche alla notizia che ho appena dato del paesino, per esempio. Quella sarebbe una notizia perfetta. Se voi conoscete un paese in cui il cibo è gratis perché qualcuno ha fatto degli orti pubblici per cui chiunque può andare a servirsi, questa è sicuramente un'ottima notizia. Ci sono degli orti biologici importanti, insomma, orti botanici rinnovati. Agricoltura, ma anche notizie piccole, non preoccupatevi, diciamo, che uno magari pensa sempre che non sia sufficiente, ma le buone notizie a volte partono da notizie minuscole. Per esempio, immaginiamoci questa signora che semplicemente la notizia era semplicemente mi hanno rubato dentro nell'orto e io invece che alzare il cancello l'ho abbassato e ho scritto servitevi. Non sembrava una notizia nel 2008, oggi nel 2013 ne parlano anche a Hong Kong. Quindi scovate anche le piccole notizie che sono in nuce un'ottima notizia. Agriturismi, fattorie biologiche, tutto quello che volete che riguardi l'agricoltura. Avete tempo fino a mercoledì per inviare la vostra proposta di buona notizia alla mail si può fare radio24.it. sarete ricontattati, trovate tutte le informazioni se volete più dettagli, ma è quello che abbiamo detto adesso in sostanza sul sito di Radio 24. Adesso iniziamo a sentire qualche ascoltatore, ascoltatrice anzi. Maria Luisa da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io abito alla Balduina, quindi sono vicina a Lepanto, che occupa uno spazio enorme giù a Viale Giulio Cesare, prende, no? E tutta questa zona, Viale delle Milizie, è immensa questa caserma. Io direi non di fare al solito, perché già a Roma già abbiamo la città della musica, del cinema, eccetera, spesi miliardi buttati così, va bene. Quindi non servono soltanto l'edilizia popolare, questo che è un grave problema che viene ignorato sempre, e facciamo per questo e facciamo per quell'altro, tutto per il divertimento. Qui c'è gente che dorme sulle panchine, ci sono famiglie intere che dormono nelle macchine. Cioè, lei invita ad utilizzare le ex caserme anche per questo, come l'ex, diciamo, destinazione. Può essere venduta, non demolita, perché altrimenti il tessuto romano scompare. Lasciata com'è, venduta a grossi palazzinari che ce ne cadono a Roma di grossi. Maria Luisa, a trovarlo uno che si compra una caserma non è facile, grazie, perché è più facile costruire ex novo, si fa un business diverso, poi si rivende. Andare a comprare l'edilizia abbandonata, avete sentito il caso di Ferrara, la caserma dei Vigili del Fuoco, la provincia ha provato a venderla ma non la comprava nessuno, allora l'hanno data a queste giovani imprese creative, l'hanno ristrutturata loro, hanno trovato una casa e non è da sottovalutare. Certo, il bisogno della casa è primario, però insomma è un'idea anche questa, come no, quella della signora. Quello che abbiamo voluto noi era una soluzione diversa. Sì, bisogna un po' spezzettarle, perché anche come metratura, diciamo, una famiglia con un figlio che si prende una caserma, forse solamente se sono dei miliardari possono farlo. Fiorangela da Ferrara proprio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io prego. Volevo far presente che nella zona all'interno delle mura, 50 metri in linea d'aria, 100 metri al vecchio ospedale, c'è questa caserma che è enorme. Sì. Allora io mi domando, per quale motivo hanno costruito un nuovo ospedale, una cattedrale nel deserto a 4-5 chilometri da Ferrara, in una zona che ha problemi fra l'altro di acqua, quindi fondamentalmente... Lo so, guardi, la pianificazione urbanistica delle città è la cosa che fa impazzire, però non credo, Fiorangela. Sono stati anche scritti alla notizia, voglio dire, ecco. No, sa cosa le dico così, proprio di buon senso? Cioè, no, un ospedale è una cosa anche tecnologica, forse esatto, farlo in una caserma abbandonata non è possibile, non è possibile, è un'altra cosa. L'ospedale però va costruito. Sto dicendo che sarebbe costato meno ristrutturare che non mandare ma a casa. Non lo so, è che non lo sappiamo. Se lei dice che non si sono neanche informati di questa cosa, è un problema. Se invece hanno fatto uno studio di fattibilità e hanno scoperto che sarebbe costato molto di più trasformare una caserma poi con dentro le sale operatorie, può essere che abbiano fatto questa valutazione. Va bene, comunque grazie Fiorangela per la sua segnalazione. Ricordiamo l'indizio per il personaggio della settimana. È una... Prego, Gabardini. È una donna di di volontà. Di volontà. Stavo dicendo di sostanza invece di volontà. Ho sbagliato. Una donna di volontà. 800 24 0024. Fatevi sotto, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La colonna sonora del film The Artist, splendida tra l'altro, bellissimo anche il film, perché vogliamo parlare di arte, ma questo è un si può fare all'estero. In Grecia si è potuto fare questo, proporre e credo, spero anche realizzare, di tenere aperti i principali musei greci 7 giorni su 7, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. E via col turismo, è questo quello che sperano almeno dalle parti di Atene. E allora noi chiediamo di spiegarci meglio questa notizia a Vicky Markaki, giornalista freelance greca. Buongiorno Vicky. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, noi questa notizia ci ha molto esaltato, ci è molto piaciuta, poi ho visto che per esempio su Twitter c'è stato molto rimbalzo, però poi i grandi media, insomma, non ne ha parlato quasi nessuno. Intanto ci confermi che c'è stato questo annuncio, questa... Sì, è stato annunciato dal primo ministro in persona con tanto di dati precisi. Saranno 33 dai 117 tra musei e siti archeologici più importanti. Questo 33% in realtà raggruppa il 95% dei turisti che ogni anno visitano la Grecia. È una legge che è già praticamente... Sì. In applicazione, riguarda come periodo, andrà dal 1 aprile al 31 ottobre per ora, 12 ore al giorno, dopo tanti anni che si parlava del fatto che in realtà arrivare dal Giappone e trovare il museo chiuso il lunedì, certo, chiuso dopo le 2:30, chiuso perché questo o perché quell'altro, era veramente... non un indice di civiltà e nemmeno di investimento sul turismo. Ma perché in effetti Vicky era così, cioè c'erano davvero delle lunghe pause di chiusura, c'erano orari insomma poco... Ma sì, cioè, quasi peggio dei negozi che già soffrono in Grecia di troppe chiusure, ma qui si era investito miliardi per fare nuovi musei e i musei chiudevano alle 2:30, cioè rimanevano aperti mezza giornata. Devo dire che è una notizia che ha fatto piacere. In genere non ho visto nemmeno l'opposizione, insomma, ha avuto da ridire, anche perché è sì. Lavoro stagionale per un sacco di giovani, di gente, quali certo. Saranno perché assumeranno nuovo personale, non è che fanno lavorare quelli che già ci sono per 12 ore no, di fila, non giusto? Non basterebbero per 12 ore di fila. È un disegno più grande, per essere sinceri, al di là dell'orario. Sì. Ecco, ma a proposito, Vicky, scusa, poi ti faccio continuare. È vero che non sono informatissimo. Il primo ministro è stato in precedenza ministro dei beni culturali, cioè lui ha una sensibilità proprio su questo tema. Sì, per un periodo. periodo è stato anche lui ministro per i beni culturali, ma è comunque una proposta che sia da destra che da sinistra si fa da anni. Evidentemente quest'anno, aspettando anche più di 18 milioni di turisti, queste sono le previsioni, si è capito finalmente che bisognava parlare dalle parole ai fatti. E quindi insomma il messaggio che... Il disegno che... è più grande, questo piano è un po' più grande, prevede anche la formazione di nuovi punti di ristoro, ma sotto il controllo dei musei stessi, non la solita storia di niente licenze, riempiamo il mondo di punti vendita. Prevede la rimodernizzazione degli spazi intorno ai siti archeologici, cioè, quindi le infrastrutture, la possibilità di accoglienza, tutto eccetera. Quanto vuol dire turismo moderno, dove si dà cultura ma si cerca anche di sfruttarla per il bene, certo, del paese. Quindi insomma c'è stata unanimità, non ci sono state critiche, tutto è filato liscio. Si può dire che dalla Grecia arriva questo messaggio che un paese come la Grecia può e deve investire sulla cultura come volano dell'economia, punto. Non solo, sai, io volevo sottolineare che nello stesso disegno legge c'è anche la previsione che chiunque ha in questo momento, greco naturalmente, una tessera di disoccupazione dal 1 aprile entra gratis a qualsiasi sito archeologico o museo in Grecia. Mi dirai, ma non abbiamo il pan, abbiamo il pan di Spagna. No, non è così. Se uno non ha a che fare, almeno ha la possibilità, senza spendere, conoscere meglio il suo paese. Certo, non deprimersi, conoscere meglio il proprio paese. Poi si sa che la cultura, l'arte, ma anche l'intrattenimento possono essere il terreno nel quale far nascere anche delle idee creative, delle idee imprenditoriali, e anche quindi per, insomma, per non stare fermi neanche dal punto di vista economico. Vicky, grazie per averci raccontato con questi dettagli e anche con questa passione da che parte sta andando la Grecia. A noi è piaciuta molto questa notizia, grazie ancora. Grazie mille, Kaki. Arrivederci. Un abbraccio, a presto. E insomma, musei aperti 7 giorni su 7, dalle 8 alle 8, diceva una vecchio refrain comico di qualche anno fa. 800 24 00 24, ascoltatori, questa ricetta vi piace? Sarebbe possibile farlo anche in Italia, immaginarlo anche come messaggio nel mondo. Pensate, 7 giorni su 7, molto semplice da comunicare. Tutti Renzi, secondo giorni, me, se, dalle 8 alle 8. Se ci ascolta e non aveva letto la notizia, domani ci fa subito un provvedimento di governo. 7 giorni su 7. Solo che il refrain comico era dalle 8 alle 8, nel senso che era solamente quel secondo, era quel secondo, dalle 8 alle 8, quindi sempre dalle 8 del mattino. Sentiamo Teresa che ci chiama da Varese, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io dovevo dare un nome, giusto? Cioè, il personaggio della settimana, forse si riferiva a questo? Sì, credo, quello. Ma io ho acceso purtroppo la radio, mi sono collegata che la trasmissione era già in corso. Ho sentito che parlavate della mostra di Klimt, di un biglietto per la mostra di Klimt. Sì, si vincono i biglietti per la mostra di Klimt. Se si risponde correttamente alla domanda chi è il personaggio della settimana, l'indizio che abbiamo dato è che si tratta di una donna di volontà. Di volontà. Io ho pensato a Giuditta. Giuditta? Cognome di Giuditta? Solo nome? No, Giuditta, Giuditta, il personaggio, biblico, sì, certo, che viene rappresentato anche in un quadro di Klimt. Ah, la signora ha fatto un'associazione bella, tra l'altro, tra Klimt, che è diciamo, il premio messo in palio, e la notizia. Però, ma la notizia della settimana su Giuditta qual è? Poteva essere no, ma io non ho sentito la prima parte della trasmissione. Vabbè, no, ma non c'è nessun problema, È che il nostro passaggio della settimana è un personaggio diciamo, al quale è legata una notizia in questa settimana. Certo. Grazie Teresa. Però grazie mille, non ha indovinato, ma può richiamare. Grazie a lei, buongiorno. Niente, arrivederci. Sentiamo Sari che ci chiama da Varese, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, stavo intrasentendo perché la signora della mia città faceva un'associazione con Klimt. Io penso di dire chi può essere, ma non ha attinenza con Klimt. Per me è l'onorevole Pinotti, il ministro della difesa. se vuol sapere per il mio punto di vista il perché, perché è una donna molto determinata, che dimostra molta fattiva volontà di fare, cosa che i nostri politici non dimostrano per niente, e poi secondo me mette anche a disposizione con molta diciamo nonchalance, cioè non vuole calcare di io sono, la sua esperienza molto positiva in questo campo da parecchi anni, insomma. Va bene, ho capito. A lei piace il ministro Pidotti, però non è lei, non è lei. Però è una bella intuizione. Poteva essere, poteva starci. Anche perché il personaggio non deve essere legato a Clint, quindi. No, anzi, chiariamolo. Sì, deve essere legato a una notizia della settimana. È stata un'idea della signora, ma non c'entra nulla. Una notizia della settimana. È sicuramente una donna di volontà, il nostro ministro. Una donna di volontà è l'indizio. Tra poco, dopo il giornale radio, daremo un altro indizio per avvicinarci al personaggio della settimana. Tra poco, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dove sarei se l'orizzonte fosse un argine? Un'onda libera vorrei. La terra gira intorno e segue le sue regole. Mentre io giro intorno. Questi è Rafael Gualazzi and the Bloody Beetroots, Liberi o no, la canzone di Sanremo l'avrete ascoltata tutti, la vostra canzone, il vostro si può fare di oggi è Valerio Di Pietro che ci segnala questa canzone. Anche perché ci ha insegnato Sanremo, diciamo, a pronunciare quella parola impronunciabile che è The Beetroots. Quelli che suonano con Gualazzi si dicono di solito, l'avevo no? L'avevo detto tanto bene. Tu l'hai detto benissimo, mi infatti. Ero preparato. Tu l'hai detto benissimo. Svelerò il segreto. Avevo chiesto proprio a Gabardini come si pronuncia, perché io con l'inglese ho qualche problema ogni tanto. No, e per i primi 4 minuti ho detto, ma non mi sembra il titolo della canzone. Quindi direi che sono assolutamente sul pezzo. Continuate a segnalarci le vostre, la vostra colonna sonora di Si può fare sulla bacheca Facebook, per esempio, del programma Si può fare trattino Radio 24. Se volete invece interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter è chiocciola Si può fare 24, mio chiocciola Ale Maurizi e il mio chiocciola Carlo Gabardini. Ascoltatori, ascoltatrici, in questo caso abbiamo Maria da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, Ilaria Alpi, la donna personaggio della settimana. È così, entra a gamba tesa. Come? No, dico semplicemente da un quarto d'ora, 20 minuti che aspetto il telefono. Ci scusi molto, ce l'aveva sulla punta della lingua, giustamente. Sono 20 anni dalla morte di lei, Rovatin, insomma, si è parlato molto di questo. In effetti poteva starci. Maria. Era molto giusto, ma non è il personaggio che abbiamo scelto. Una donna di volontà. Una donna di volontà, era bello messo a fianco a Ilaria Alpi, una donna di volontà. E va bene. È un'altra di quelle volte. Allora diamo un altro, esatto, delle risposte che sono più belle quasi di quello che abbiamo pensato. Ma noi. Non è che è più bella, no, che c'è la gara delle buone notizie. No, però diamo un altro indizio. Diamo un altro indizio. Che dice Alessio? No, aspetta, lo diamo in chiusura del blocco, se no è troppo facile. Facciamo Francesca da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io ho pensato Somaya Yabarti, primo direttore donna in Arabia Saudita. Cavolo, direttore donna di che cosa? Del Saudi Gazette. Ah, di un giornale in Arabia un Saudita. Un giornale in lingua inglese del paese, la prima direttrice, insomma, in Arabia Saudita per una donna non è poco. Bella, era molto giusto, come questa. Può notare dalle nostre domande, evidentemente non è lei. Non sapevamo neanche che esistesse. Però lei, Francesca, ha arricchito il programma e di molto. Allora, ci ricordi questa notizia? Cioè, è stata nominata da poco prima direttrice di un quotidiano in Arabia Saudita, una donna. La prima giornalista si è chiamata a dirigere una testata araba, che si chiama Saudi Gazette, che è uno dei principali quotidiani in lingua inglese del paese. Con il velo, chiaramente, era vice direttrice, adesso è diventata direttrice. Va bene. Non è poco. Non è poco, assolutamente. È un'ottima notizia. Grazie, Francesca. Grazie. Complimenti, sì. Siete una bellissima coppia di fatto. Grazie. Grazie, questo è un complimento bellissimo. E lo porterò, lo dirò sicuramente a Bergamo oggi e poi a mia mamma stasera. Fantastico. Grazie. Francesca, grazie. Anche lei ci ha dato, tra l'altro, una risposta bella che verrebbe voglia di farla vincere ad honorem, ma non vince per il momento i biglietti della mostra di Clint. Se non indovina nessuno, però potrebbe anche essere. Allora, certo. Rientrano. Sentiamo anche Marco che chiama da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo parlare ancora della faccenda delle caserme, sì, perché faccio l'immobiliarista e volevo e dire ci che tiene. Secondo me sì, no, avevo le mie idee. Secondo me le caserme andrebbero distrutte perché non hanno normalmente particolare pregio né architettonico né costruttivo, quindi una volta demolite i palazzinari, come diceva la signora, li acquistano, non hanno più vincoli. Sì. E si può effettivamente riqualificare la zona urbana dove la caserma. Però lei che è del settore, scusi, una curiosità, una volta un architetto mi ha detto: sa qual è il problema di abbattere gli ecomostri, a parte i costi, le macerie, dove si mettono le macerie? No, le macerie tendenzialmente adesso vanno riciclate come qualsiasi altro tipo di rifiuto, però prima della demolizione si tolgono le parti in plastica, in ferro, in legno, e poi vengono utilizzate per fare il sottofondo per la nuova costruzione. Però, mi scusi, io sono, non è che me ne intenda di caserme, però ho in mente alcune caserme che in realtà sono anche dei palazzi bellissimi, nel senso, certo, che buttarli giù per ricostruire delle alcune simpatiche, sì. Sì, non lo so, palazzi di 7 piani, non so se mi sembra una soluzione straordinaria, però forse mi sbaglio io. Naturalmente bisogna scegliere quelle da buttare e quelle da tenere. È vero, bisognerebbe usare un po' di intelligenza. Salis, esatto. Ci sono degli edifici che hanno un valore Liberty o che hanno comunque, sì, una loro, sono inseriti nel contesto, certo, della città e possono essere utili. A volte sono delle zone bellissime, però, dove se tu le butti giù, sì, e costruisci, vabbè, le palazzine. Sì, però sono una minoranza. Grazie Marco, grazie, da Palma, grazie mille. Grazie. Facciamo anche Mauro da Milano, chiudiamo il blocco con un altro ascoltatore. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, io chiamavo per quanto riguarda il discorso dell'apertura dei musei, non so se è un argomento questo, almeno. Ma certo. Esattamente. Quindi io sono perfettamente d'accordo su questa cosa, anche perché penso che il nostro paese sia un paese soprattutto prevalentemente turistico, quindi al di là di creare altre ecomostri o creare altre soluzioni in qualsiasi attività industriale, penso che noi dobbiamo sfruttare soprattutto quello che è il turismo e la nostra base è questo. Ricordiamo che la notizia riguarda la Grecia in realtà. Esattamente, infatti la cosa che mi spaventa di più è proprio questa, non mi spaventa, insomma mi stupisce, ma poi alla fine non mi stupisce cercando di inserirmi in questo contesto di questo momento che c'è tutto una grossa confusione. Ma al di là di questo, dico proprio che la notizia viene dalla Grecia, cioè voglio dire, un paese che come il nostro probabilmente ancora un po' più di problemi del nostro ha capito prima di noi questa cosa, e le dirò ancora di più, poi vi lascio perché magari porto via un po' di tempo. Il discorso è anche questo: innanzitutto si creerebbe più occupazione, se è vero che abbiamo bisogno di occupazione. Verissimo. Giusto. Un'altra cosa importante è che dietro questo si potrebbe inserire all'interno di queste attività, quindi accompagnatori, tutto quello che riguarda il mondo dei sì, musei e tutto, questa gente che lavora, che in questo momento è senza lavoro, quindi sono cassi integrati, sì, che stanno a casa a non fare niente. Va bene Mauro, grazie, ha ragione. Pensate 7 giorni su 7, io lo ripeto, questo slogan renziano, già lo vedo fatto per Expo, almeno per Expo facciamolo, no? Beh, Expo tutto sarà aperto 7 giorni su 7. No, ma Expo sì, sarà, ma aperto museo. 7 giorni su 7. Grazie. Il problema è che spesso nei musei, però l'abbiamo anche data spesso come notizia, poi usano dei volontari perché non ci sono i soldi per pagare, quindi bisogna trovarli questi 7 soldi. Giorni su 7 volontari. Ogni euro investito in un museo in Italia dovrebbe renderne almeno 5, ora la butto lì così, ma anche 10, anche 20, non lo so, ma dovrebbe essere. Dovresti fare l'imprenditore, diciamo. Non credo. Traffico, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Così ho capito, nella vita il significato, c'è il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ingrassato. Viaggio, un paese ben coltivato, viaggio nell'Italia che torna alla terra e forse a se stessa, è il nuovo libro di Giorgio Boatti, un scrittore, collega, giornalista, è un bellissimo libro, lui è in studio qua con noi oggi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. un viaggio alla scoperta di un'Italia agricola da parte di un non tecnico, di non appassionato a questa materia, alla scoperta di un'Italia com'è, ma anche come potrebbe essere se noi mettessimo davvero in cima alle nostre preoccupazioni questo tema dell'agricoltura, del paesaggio, della cura del territorio, che per noi è davvero una miniera preziosa. Giorgio, cosa hai visto, cosa hai scoperto, come è nata anche l'idea di fare questo viaggio? Beh, l'idea è nata guardandomi attorno. Io abito in campagna, in una cascina, ci sono andato a stare da pochi anni e guardavo il paesaggio, camminavo, andavo al fiume, boschi, ma non avevo mai visto, non avevo mai capito, non avevo mai guardato il coltivare quotidiano. Quando il mio padrone di casa, che sono agricoltori, ha deciso di farsi il pane in casa e ha piantato un campo di grano, e io ho seguito passo dopo passo questa sua scommessa, ho detto: ma qui c'è un universo da riscoprire, da narrare. Già mi sembra bellissimo, perché uno dice: voglio farmi il pane in casa, al primo pensiero pianto del grano. Io sì, nella mia testa dico: boh, sarei andato a comprare della farina. Invece già mi sembra un altro punto di vista. È un altro universo, e appunto è un universo dove io in passato avevo fatto libri su vicende storiche italiane, le piaghe della nostra storia, libri di carta costruiti sugli archivi. Posso ricordarne uno, perché io sono felicissimo che sia qui Giorgio Boatti, perché ha scritto un libro fondamentale sulla strage di Piazza Fontana. Io, un libro sul quale ho studiato tantissimo, e quindi sono felicissimo finalmente di conoscere l'autore. Scusatemi questa parentesi. No, quindi libri su storia, e poi da un certo punto in poi ho deciso che bisognava inforcare altri occhiali, che avevo bisogno di inforcare altri occhiali e andare in giro per questo paese, per quest'Italia, vedendo il mutamento in corso, vedendo i lati in cui la sfida per andare incontro all'innovazione, per creare lavoro, per avere nuove prospettive, sono reali, sono concrete. E insomma, non ho praticato più lo sport nazionale dell'autodenigrazione, mi sono proprio stufato. Quindi siamo lieti di averti qua, perché noi questo spazio del sabato e della domenica lo dedichiamo proprio a tutti quelli che hanno un po' questa filosofia di vita. Però ci sono anche delle note dolenti. Dicevi del pane, il tuo viaggio forse inizia dalla riscoperta del pane, però tu citi il fatto che l'Italia, per esempio, su questo semplice aspetto del pane non è più autosufficiente, dobbiamo importare il frumento necessario da diversi paesi, uno dice dal Canada, dagli Stati Uniti, sì, ma anche magari da paesi dove uno non se l'aspetterebbe. Quindi c'è però una sfida che ci sta sfuggendo di mano, che stiamo perdendo anche, che abbiamo perso posizioni in questo terreno. Sicuramente è un mondo complicato, anche il mondo complicato in generale, quello dell'agricoltura ancora di più. Però basta andare in giro per l'Italia, appunto io dalla mia cascina nel cuore del parco del Ticino sono volato a Reggio Calabria sullo stretto, ho fatto un salto di là in Sicilia, e poi in questo mio viaggio praticamente ripercorro in su e in giù instancabilmente le varie regioni, trovando storie. Non parlo solo di prodotti, sì, a me piacciono molto le storie delle sfide, e le sfide devono fare i conti appunto con la globalizzazione, con il fatto che ormai solamente la qualità è premiata. Quindi se in alcuni settori, ad esempio quello degli agrumi, noi abbiamo perso posizioni rispetto a 20-30 anni fa, è forse perché si sono fatti degli errori, ci si è abbandonati a un sistema di rimborsi che non era molto sensato. Ma chi ha puntato sulla qualità, o chi sta puntando, sì, sulla qualità, e io ad esempio ho visto storie nel meridione, imprenditrici donne che sono veramente delle capitane di industria e che mettono in piedi la filiera della fragola in Basilicata, altre che fanno un prodotto banale che io amo come l'uva da tavola, però riescono a creare un brand che va negli Emirati, va in Russia come prodotto di qualità. Accidemboli, l'Italia si affida a queste intuizioni, a questo lavoro che poi ha una concretezza e una vitalità che forse in altri settori non c'è. I numeri dicono questo, i numeri dicono che l'agricoltura è uno dei pochi settori con il segno più davanti, le esportazioni, il made in Italy, il biologico, tutta questa filiera sta andando bene, le fattorie didattiche, gli agriturismi eccetera. Però non per essere sempre menagramo, perché poi non è questo quello che cerchiamo di fare noi, ma in effetti hai citato le arance, anche le arance, gli agrumi sono stati un po' al centro di vicende che hanno avuto la prima pagina dei giornali, i raccoglitori extracomunitari a Rosarno, in Calabria, tutta quella faccenda ci aveva fatto capire a un certo punto che c'era una questione, che era quella degli agrumi. Anche lì noi abbiamo perso posizioni, ci ha superato il Marocco, ci ha superato l'Egitto. Sei ottimista su questo? per esempio. No, appunto, non si tratta di negare la realtà. Io sono stato in Calabria perché volevo raccontare delle belle storie di agrumi e non ne ho trovate, perché lì con il c'erano le fabbriche di carta che ti davano i rimborsi non sulla qualità delle arance, ma sulla trasformazione virtuale del prodotto. Quindi per diversi anni qualcuno ha vissuto di una rendita che non aveva ragione di esistere. Però poi appena vado avanti 40-50 chilometri, arrivo nell'Aspromonte e vedo una bellissima storia che ha a che fare col bergamotto. Un personaggio che ha puntato sul bergamotto bio, bergamotto, l'essenza di bergamotto è alla base di ogni della profumeria. Della... Sì. E... Ah, io pensavo all'Earl Grey, stavo pensando al tè, quindi sono messo male. Sarà anche quello forse. E questo, so. Questo che faceva di, fino a pochi anni fa, 40 anni così, l'avvocato, c'era una proprietà di famiglia, l'ha presa in mano, ha creato un resò biologico e sta fornendo tutti i nasi, li chiamano, cioè gli esperti dell'industria profumiera, di questa essenza che ha un valore incredibile, bypassando anche qui le rendite di posizione di quelli che su questa cosa vogliono guadagnarci senza fare nulla. E di questa storia, in tutte di queste vicende, con questa tipologia, ovunque voi andiate, dalle Marche al Veneto, alla Liguria, ci sono proprio delle belle testimonianze ed è un piacere incontrare poi queste persone. Giorgio Boatti, Un paese ben coltivato, Viaggio nell'Italia che torna alla terra e forse a se stessa. Questo è il libro di cui stiamo parlando. Ci sono tante storie, molte le hai citate, accennate, alcune ce le hai un po' raccontate, dagli oliveti della Liguria, io mi sono segnato alcune cose, le risaie del Piemonte, il radicchio rosso di Chioggia. Anche questa è una cosa, io per esempio ignoravo completamente. Cioè, bellissima storia, lì c'era un radicchio che i coltivatori capiscono che ha una caratteristica, che ha una fragranza, una croccantezza che si abbina al colore rosso. Allora nel corso degli anni selezionano solo le piante che hanno questa caratteristica, le portano nel semenzaio, se le accudiscono come figli e di anno in anno tirano fuori questa specie, che è una specie poi adesso protetta, che è una di origine protetta. E ma accade adesso questa cioè in modernità, diciamo, allora, questa selezione? Certo, è accaduta negli anni 50, poi c'è stato il grande boom negli anni 70 che ha arricchito tutto il Chioggiotto e adesso ci sono le imitazioni, quindi anche lì si tratta, certo, di far fronte con avete queste coltivazioni bellissime in questa stagione, davanti c'è il mare, c'è sottomarina ed è un piacere vedere queste persone che tra l'altro si mettono insieme a lavorare, quindi superano, ecco, questo è un altro aspetto di quello che sta avvenendo nel paese ben coltivato, non solo le donne, non solo i giovani, ma è finalmente il gusto di superare il proprio particolare, mettere assieme le energie, le idee e lavorare fianco a fianco. Questo è fondamentale e sta avvenendo. Io però prima di finire questa parte vorrei che tu ci raccontassi la storia del prete che faceva piantare gli alberi come penitenza, perché è bellissima. Sì, bisogna essere un po' matti come sono io, perché io leggo in un libro tre righe che raccontano di come molti secoli fa in un paese del Molise un parroco, quando in confessione ascoltava i suoi porrecchiani, invece di dare le Ave Marie e Paternoster, dava per i peccati da piantare alberi, e il commento era: il segno di questa scelta è ancora incisa sul paesaggio. Io leggo queste tre righe e dico: andiamo a vedere. Quindi vado a Montagano, nel cuore del Molise, e lì è ancora non solo circondato da una pineta che è dilagante su tutti i crinali, ma poi vai a vedere le mappe, ci sono ancora le località che si chiamano Pescheto, Noceto, perché ci sono ancora tutti i residui dei peccati delle generazioni precedenti. Per fortuna che è una zona di grandissimi peccatori, perché se no, se fosse stata una zona di santi, c'erano probabilmente due pruni e un albero da pesche. Estendendo questa cosa, l'Italia potrebbe essere un giardino coltivato straordinario. Direi che Milano sarebbe forse uno dei posti più verdi nel mondo, se per ogni peccato si piantasse un faggio. È ancora possibile fare una cosa del genere, ma cari amici preti all'ascolto, ma perché non fate come si chiamava questo prete molisano? Non si ha il nome. Perché poi si sono perdute le tracce, però lì la memoria del suo agire è visibile, è percettibile. Dovete farlo, amici preti all'ascolto, piantare degli alberi al posto di dire le Ave Marie. Insieme, che sennò adesso arrivano tutte le telefonate. Perfetto, e abbiamo per fortuna qua Giorgio Boatti che chiosa magnificamente. Io solamente, un uomo che dice accidemboli, il suo libro lo comprerei. Scusate, è fatta. Sentiamo anche qualche ascoltatore prima di andare in pubblicità. Delfina da Verona, buongiorno. buongiorno. Eccola. Ecco, il personaggio della settimana penso sia Suor Cristina. Suor Cristina, chi è Suor Cristina? Allora, che ha cantato a Italia's Got Talent. Ecco, sì, mi mancava questo passaggio. Ma era anche della rosa, Alessio, dei nostri personaggi. Era anche della rosa, sì, me l'ero persa questo petalo di rosa. 2 milioni di ascolti in YouTube. Esatto. Fantastico. No, grazie, Delfina, non era Suor Cristina. La risposta giusta, fra po' diamo un altro indizio, magari, così siamo già alla mezza, se no rischia che diamolo, non ci arriviamo. Vediamolo. Dallo tu, vai. Vediamolo. Allora, diciamo che è americana. Americana, il fantastico. Nostro personaggio donna settimana di volontà, è una donna di volontà americana. Andrea da Livorno, buongiorno. Lei per cosa ci chiamava? Buongiorno, io la chiamavo, a parte una piccola provocazione, dico Miley Cyrus, vedendo cosa sta facendo come personaggio della settimana americano. Vabbè. Ah, Gabardini, risponda. Qual è la notizia? No, per quelle sexy pellicole che sta facendo e sta spopolando anche lei. Esatto, sì. Volevo che lo dicessi tu, perché sennò poi mia mamma sente e dice: ma come? Parli sempre delle stesse cose. Esatto. No. Lo scopo della mia telefonata era prevalentemente un altro, sono stato stimolato. Ah, pensavo che era mettermi in difficoltà con mia mamma lo scopo della telefonata, no, mi preoccupavo. No, assolutamente, le mamme non vanno mai in difficoltà. Ottimo, comunque non è giusto, non è il personaggio della settimana, lo diciamo per tutti. No, era solamente dovuto al fatto, velocissimo, sono stato stimolato in qualità di direttore di una importante azienda agricola in Toscana, dal fatto che prima avete giustamente sostenuto che stiamo perdendo posti nelle produzioni agricole primarie. Sì. Volevo dire, probabilmente non tutti sanno che a settembre partirà la nuova PAC, politica agricola comunitaria. Sì. E ti dico solo che abbiamo qua in studio Giorgio Boatti che sta annuendo, quindi... Allora, il primo di agosto devono partire le linee guida. Non mi risulta che ad oggi sia stata ancora formata una commissione per decidere a chi vadano i soldi, come, quando e perché, dai nostri galantomeni. Che i nostri galantoni sono, quindi, i governanti. Va stiamo, bene, sì. Stiamo perdendo opportunità e milioni di euro in un settore che in Italia dovrebbe essere primario. Ha ragione, Andrea, grazie. Non so se Giorgio Boatti vuole chiosare. Io poi devo dire una cosa. Dopo questa bella intervista, vi ricordo, cari ascoltatori, che la parola, il tema agricoltura è anche quello per partecipare al nostro contest. Per cui diventate inviati di Si Può Fare. Trovate una buona notizia nell'ambito dell'agricoltura. Questa settimana avete tempo fino a mercoledì per scriverci. Diciamo che se non avete idee, prendete il libro di Boatti pagina 6. Ne avete 21 di idee, quindi scriveteci a Si Può Fare @radio24.it, inviateci la vostra proposta di buona notizia, verrete ricontattati dalla redazione. Giorgio, a proposito di quello che diceva l'ascoltatore, è la dimostrazione che in questo momento bisogna dare spazio anche dal punto di vista proprio informativo e del dibattito a questa realtà, è fondamentale, fa parte dei nostri nodi per uscire da questa situazione, da questa crisi. Grazie, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Si Può Fare, cronache da un paese migliore. Ascoltatore ci chiede al 349-238-6666 di ricordare il titolo e l'autore del libro di cui abbiamo appena parlato. Era Giorgio Boatti, Un paese ben coltivato, viaggio nell'Italia che torna alla terra e forse a se stessa, editori La Terza. E così abbiamo adempiuto anche a questo compito nei confronti degli ascoltatori. Adesso Boatti è andato via, ma continuiamo a parlare di che cosa? Per esempio di un prodotto italiano che nasce dall'agricoltura e che sta andando alla grande all'estero. C'è stato boom di esportazioni per la birra italiana fatta con mais italiano e pare che alla base di questo successo ci sia proprio la coltivazione del mais italiano. Avete capito di quale birra stiamo parlando? No, è la birra Peroni. Noi abbiamo convocato Federico Sanella, che è direttore delle relazioni esterne di Peroni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ci hanno molto colpito i vostri numeri, numeri che parlano di un boom di esportazioni, che parlano di investimenti importanti in Italia. Avete annunciato 18 milioni di euro di investimenti nel Made in Italy, una filiera lunga, e per chiudere avete annunciato anche che volete far crescere questa filiera con nuovi agricoltori nel campo del mais. Da dove cominciamo? Intanto dai numeri, c'è stato un boom di esportazioni. Il segreto è il mais italiano? Beh, allora il segreto è la qualità del prodotto in realtà. Il boom di esportazioni ormai è qualche anno che sta prendendo piede. La birra italiana viene sempre più riconosciuta come un prodotto di eccellenza all'estero. L'origine è stata un po' anche questa idea che abbiamo avuto di lavorare con la filiera agricola. Sì. In particolare il progetto nasce nel 2007, abbiamo sviluppato una qualità autoctona di mais che produciamo nell'area del Veneto, Piemonte e Lombardia, uh-huh. e che è un mais italiano di grandissima qualità che viene utilizzato per nastro azzurro. Oggi nastro azzurro esporta in 60 paesi, per cui grandi numeri di esportazione e un made in Italy nella birra che era anche qualche cosa che qualche anno fa nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Ecco, l'altro numero che ci ha colpito è impressionante, 18 milioni di euro per l'innovazione e l'adeguamento degli stabilimenti produttivi italiani. Assolutamente sì, noi lavoriamo su tre stabilimenti in Italia, quello di Padova, uno molto grande a Roma e uno a Bari. Mm. Per i tre stabilimenti abbiamo pianificato investimenti importanti che vanno a toccare aumento della produttività, ma anche ottimizzazione per ridurre i consumi energetici e dell'acqua, che sono settori estremamente importanti per noi. Naturalmente noi siamo un'azienda che consuma molta acqua per produrre birra, e quindi l'ottimizzazione delle risorse diventa un elemento fondamentale. Senta Sanella, quante persone lavorano con voi, o anche calcolando diciamo l'indotto, la filiera, quanti occupati ci sono presso? Filiera è molto grande, la filiera, poiché riguarda diciamo tutto il processo, quello che a noi ci piace raccontarlo come dalla terra alla tavola, è una filiera molto lunga che riguarda circa 19.000 addetti. Quindi un numero importante per l'economia italiana, che poi è risultato da uno studio fatto da Ernest Young, che ha voluto calcolare in questa maniera l'impatto. Uh-huh. Birra Peroni direttamente occupa circa 750 dipendenti, quindi un numero comunque importante, ma una filiera lunghissima, perché appunto riguarda oltre 1500 agricoltori che lavorano con noi, che sono sia produttori di orzo sia produttori di mais, quindi 200 di mais e il restante di orzo. Naturalmente consumiamo molto più orzo per la produzione di birra. Ma quindi è corretto dire che questa filiera può ancora allargarsi, visto che i numeri sono in crescita, e quindi se ci fosse qualcuno interessato a entrare come produttore di mais? Guardi, assolutamente, perché noi ci crediamo moltissimo, tant'è che abbiamo avviato l'anno scorso un progetto con Confagricoltura, in particolar modo con l'ENAPRA, che è l'ente di formazione di Confagricoltura, proprio per favorire l'ingresso nella filiera di giovani imprenditori. Abbiamo parlato infatti con Confagricoltura e capito che uno dei grandi problemi dell'agricoltura in Italia è proprio il ricambio generazionale, dei giovani che non entrano facilmente nel settore, e che invece è un settore in cui noi crediamo molto che può essere un volano dell'economia italiana. Per cui abbiamo avviato un progetto di formazione per i giovani agricoltori che riguarda sia la sostenibilità in agricoltura, che è sicuramente molto importante, ma anche come ottenere finanziamenti, come avviare l'impresa, quindi tutti gli strumenti necessari per giovani agricoltori oppure giovani che vogliono entrare nella filiera e quindi fare parte di questo rilancio. Ci arriva una richiesta, una domanda via SMS. È una birra totalmente senza glutine, ci chiede Anna. Io non credo che, non lo so. No, assolutamente no, non è un... C'è un problema col glutine per chi è... Beh, i celiaci non possono, sono poche le birre che i celiaci possono bere. Sono molto poche, sì. Per cui è molto difficile entrare in quel... Sì. Ma ne produrrete una anche per celiaci? Per ora non è in programma, no, in questo momento non abbiamo progetti. No, lo chiedevo così, sono lo stupido dei due, lo chiedevo semplicemente per i nostri ascoltatori che fossero, diciamo... Vabbè dai, il prossimo passo, la birra Peroni sarà... Il prossimo passo andremo a vedere se è possibile, però per ora i numeri sono tali per cui... In realtà noi siamo molto in questo momento dedicati all'export e anche guardiamo a numeri molto grandi, per cui in realtà è un settore, quello abbastanza ancora piccolo per fortuna, quello dei ciliegi. Quindi... Ma la birra Peroni, mi scusi, sempre sono ignorante, è un'azienda totalmente italiana o in realtà fa parte del gruppo Miller? Fa parte del gruppo, credo, sì. Dal 2003 fa parte del secondo gruppo al mondo di birra, la Sir Miller, che opera diciamo in tutti i 5 continenti, un gruppo certo, molto grande, che però ha deciso di investire in Italia proprio per la caratteristica del Made in Italy di birra Peroni. Quindi di mantenere la birra italiana Peroni, però diciamo la proprietà è americana, è Miller, giusto? In realtà è anglo-sudafricana. Anglo-sudafricana, mi ero documentato. Nasce in Sudafrica e oggi ha sede a Londra. Senta, Sannella, una curiosità ce l'ho io invece è questa. Chi è il paese più bevitore di birra al mondo? Lei lo sa? Quali sono i dati su questo? Beh, la Repubblica Ceca fa in Europa sicuramente la fa da padrona anche con la Polonia. Noi siamo gli ultimi. Come gli ultimi? Nel mondo? In Europa siamo sicuramente il paese col consumo pro capite più basso. Ma perché abbiamo il vino? Abbiamo il vino. O no? Siamo una cultura, sì, molto di vino, ma la birra sta crescendo. Però ormai siamo gli ultimi, proprio non me l'aspettavo. Poi abbiamo il consumo pro capite più basso. Poi c'è l'accisa sulla birra, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. C'è una petizione per toglierla, credo che lei sia al corrente di questo, perché c'è anche una tassa. Anzi, la spingo con Salva la sua birra, firmate la petizione, perché è importante fare appunto anche in questo caso squadra con tutti, perché l'accisa è stata aumentata quest'anno, riaumenterà a gennaio del 2015 e assolutamente dobbiamo fermarla. Perché ricordiamo che era considerato, secondo una vecchia legge, un prodotto non da consumo a tavola e quindi alla stregua dei superalcolici veniva tassato diversamente dal vino. Invece, siccome la birra è un prodotto da pasto, questa accisa forse è diventata anacronistica. Da lì la petizione. Noi ci fermiamo qua. Grazie Federico Sannella, direttore delle relazioni esterne di Peroni. Questo era il caso. Grazie mille. Grazie. Il caso aziendale importante di cui abbiamo voluto parlare oggi. Il mais italiano alla base del boom di esportazioni della birra Peroni. Una filiera tutta italiana. Insomma, ottimo. Sarei stato curioso di sentire cosa diceva Boatti sulla Peroni. Ma era informato, sì, dovuto andare via. Informatissimo. L'avevo detto prima, ma non me l'aspettavo questa cosa veramente di essere ultimi in classifica. Pensavo di alzare la media. Pensavo di alzare la media. Io me ne occuperò già da oggi di alzare la media. Tanto tra poco inizia il tuo weekend. Esattamente, inizia il mio weekend. E poi immagino che nel football americano, voglio dire, gli altri giocheranno. E io penso che starò a bordo campo con delle birrette. Cosa devo fare? Traffico, torniamo tra un attimo. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo la signora Paola che ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuta. Pronto? Pronto Paola, tocca a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Paola ma chiamo da Milano. E io volevo segnalare al giornalista Boatti e a tutti gli ascoltatori una realtà molto importante di una scuola in centro a Milano. Sì. La scuola si chiama Rinnovata Pizzigoni, è stata fondata nel 1906, una scuola pubblica che da sempre fa dell'agricoltura il punto di partenza per il suo metodo. Le faccio un esempio riallacciandomi al discorso del mais. I bambini di quinta elementare coltivano un appezzamento di mais che lasciano in eredità ai bambini che entreranno nella prima elementare. I bambini di prima elementare a settembre trovano il mais, lo conoscono, lo guardano nel campo, poi lo raccolgono, imparano cos'è il tutolo, lo dividono tutti i chicchi di mais e inizia la matematica da questo momento. Ma è bellissima questa notizia. Doveva candidarsi per fare per il nostro contest come quasi inviata per darci questa notizia. Certo, può sempre scriverci alla mail, si può fare radio24.it. Sì? Senz'altro, le dico anche che la signora Pizzigoni già nel 1906 aveva vinto la medaglia di bronzo all'Expo di Milano e dal 1906 questa scuola va avanti e dovrebbe essere copiata in tutto il mondo, soprattutto in questo momento così importante. Ma è ancora meglio la notizia, nel senso che questo è ancora più da giornalista, addirittura Pizzigoni che ha vinto nel 1906 all'Expo di Milano, quindi praticamente esatto. 119 anni pre- 109, vabbè adesso esatto, il calcolo esatto. Quindi, cari ascoltatori, avete capito bene, l'agricoltura è il tema per cercare le buone notizie, per andare a caccia di buone notizie questa settimana. Avete tempo fino a mercoledì per scriverci alla mail, si può fare radio24.it per segnalare le vostre buone notizie e i racconti che ci sembreranno più interessanti. Poi ve li faremo fare, ve lo faremo fare uno alla settimana in onda sabato prossimo. Abbiamo anche Paola, però non ha, abbiamo un'altra Paola. Paola da Roma, sì, c'è un incrocio di Paola. Paola da Roma, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, volevo rispondere alla domanda del personaggio della settimana. Sì. Michelle Obama. Qual è la notizia? La notizia è che ha parlato, è stata a Pechino e ha parlato agli studenti. Vero. È stata tra l'altro senza il marito, mi pare, no? Ha proprio fatto sì, un viaggio è lei, con sì. La mamma. Ha parlato insomma di libertà di espressione all'Università di Pechino. Grazie Paola, però non era Michelle Obama, non era Michelle Obama, speriamo in questi ultimi minuti di arrivarci. Spero proprio di sì. Adesso qualche suggerimento per le giornate FAI di primavera, ieri e oggi, 750 luoghi del cuore da riscoprire. E speriamo l'aria. Abbiamo moltissimo tempo, salutiamola subito, Elisa Pasqualetto, responsabile progetto Giornate FAI di primavera. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Abbiamo ancora un giorno, insomma, c'è stato ieri, c'è anche oggi per scoprire i luoghi del FAI. Ci vuoi dare qualche suggerimento così? Sì, allora, intanto è una giornata di primavera con delle temperature non proprio primaverili, però non piove, a Milano non piove, quindi venite, uscite di casa, venite a visitare i nostri luoghi perché sono incredibili, sono 750 in tutta Italia, ci sono delle code lunghissime, quindi consiglio ancora prima di uscire di iscrivervi informarsi. Al FAI, perché sì. Solo in questo modo si può appunto accedere saltando le code e visitando tutti i luoghi. Sono tantissimi, li trovate tutti sul www.giornatefai.it, sì. C'è l'elenco di tutta Italia, ci sono anche dei consigli per le visite, le chicche. Cioè, diciamo chiaramente, Elisa, poi ci dai qualche indicazione, che sono luoghi che solo in questi giorni, in linea di massima, no? Sono... Sì, esatto, sono tutti, oltre ai nostri beni FAI, che sì. Poi sono aperti tutto l'anno, gli altri sono non di proprietà FAI, chiaramente, quindi i proprietari ci concedono l'apertura solo esatto. Per questi due giorni. Quindi un'occasione unica e golosa da approfittare. Vogliamo dire qualcosa, Milano, un luogo per Milano? Allora, Milano, tra tutti naturalmente l'hotel diurno, perché è un luogo emozionante, è l'aggettivo che lo descrive nel miglior modo possibile, perché è anni 30, perfettamente conservato, visitabile solo oggi e di proprietà del comune. Okay. Ma dov'è? È quello in Duomo? Lo cercheranno sul sito. Di Piazza Oberland. Roma. Sì. Roma, Mausoleo di Augusto, perché normalmente non è visitabile, quindi anche quello solo oggi, e ci sono già delle code lunghissime, è straordinario e è attesissimo, un'apertura attesissima dai romani. Ok, un'altra città, Gavardini, hai una curiosità su qualche città? Firenze. Firenze c'è l'hotel, scusa, c'è la scuola francese, sì, e la Palazzo Ginori, che anche questo normalmente non è visitabile, perché anche se è una scuola appunto non si può accedere normalmente, quindi è molto curioso e particolare. E poi non so, passiamo a Napoli. A Napoli, sì, c'è Villa Lucia, bellissima, nel parco di Villa Floridiana. Il parco è visitabile, però la villa no, ma non è aperta solo per questo weekend. Va bene, va bene. Bello, molto bello. Elisa, grazie mille, sei stata bravissima. In poco tempo sei riuscita a darci un sacco di informazioni. E il diurno di Milano è bellissimo, perché l'ho visto. È bellissimo, andiamo sul sito a vedere quali sono i luoghi del Fai da riscoprire. Abbiamo Concetta da Torino, speriamo che ci dia la soluzione giusta per il personaggio della settimana. Ultima chance, Concetta, buongiorno. Buongiorno, signor Maurizio. Io ho pensato alla ballerina Adriana Leth Davis, che aveva perso la gamba nella città. Brava, complimenti. Era una ballerina che aveva perso una gamba alla maratona di Boston, sì, quando ci furono le esplosioni. Ha avuto la possibilità, grazie a una tecnologia del MIT, di avere una protesi, una gamba nuova, e ha fatto un'esibizione danzante. Un fatto veramente straordinario, bellissimo, ci aveva colpito. Concetta, lei vince i biglietti e il catalogo per la mostra di Klimt. Brava, complimenti. È proprio in zona Cesarini, come si suol dire. Adesso, se non piove, andremo nei luoghi del cuore anche noi a Milano, perché io vado a Bergamo. Vado a Bergamo a fare il kick off. Grazie alle cose cambiano. Basta, poi però dopo, la settimana prossima parliamo d'altro. Ma come d'altro? La mia vita è questo, che cosa ci posso fare? Lo so, però. Ringraziamo Andrea Piana, Giorgio De Luca, Camilla Tomadini, Peter Bescapè in regia, anche chi ci ascolta in podcast. Buona giornata da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. Ciao, buona domenica. Sì.